Meno male che ci stanno i militari che ci proteggono. Ma che dice, signor? Le strade sicure le famo noi, le donne che la attraversano. Domenica 2 febbraio, appuntamento alle 17.30 in via Ossienze 137, dalle Cagne Sciolte, per fare una passeggiata collettiva nel quartiere. Vogliamo andare insieme dove non ci sentiamo libere di camminare da sole, soprattutto di notte. Vi invitiamo ad uscire di casa per venire insieme a noi o ad aprire le finestre al nostro passaggio. Perché chi agisce violenza conta sull'indifferenza e sul timore di chi lo circonda. Rompere il silenzio è la prima risposta contro la violenza di genere. Domenica 2 febbraio, ore 17.30, partenza da via Ostiense 137. cagnesciolte.noblogs.org. Ed eccoci di nuovo in voce alle 10.17 degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Di nuovo in voce con due compagne delle Cagne Sciolte che ci hanno raggiunto qui a Radio Onda Rossa per parlare proprio dell'iniziativa che questo spottino, insomma, che avete appena ascoltato vi ha in qualche modo riassunto, cioè della passeggiata collettiva che ci sarà questa domenica alle 17.30. Intanto buongiorno, grazie di essere venute. Ciao. Buongiorno. E appunto l'appuntamento è stato lanciato dallo spot, ma intanto non so, cominciamo dall'inizio della storia. Cominciamo da presentare chi sono le Cagne Sciolte, cioè per la verità le ascoltatrici e gli ascoltatori di questa radio probabilmente già vi conoscono, ma non si sa mai. Sì, va bene, faccio un breve riassunto della nostra storia, che comunque è piccolina perché siamo nate da poco e abbiamo liberato questo spazio a Via Ostiense il 14 di dicembre, e diciamo che siamo un gruppo di donne, ma non solo, e che diciamo quello che ci tiene insieme è diciamo l'appartenenza comunque alla storia del femminismo, e quello che ci ha spinte diciamo ad occupare questo spazio è la volontà appunto di dotarci di un luogo liberato che fosse un punto di partenza per noi, ma diciamo per tutte le altre donne e le altre compagne di questa città. E quindi appunto il 14 dicembre siamo entrate in questo spazio e lo abbiamo restituito al quartiere e a tutte le donne in generale. Lo spazio è in via Ostiense 137, nel caso qualcuna ci voglia passare a trovare. E è uno spazio anche, come dire, che ha una sua storia specifica, particolare, non so se ci volete raccontare. Sì, guarda, questo è praticamente uno stabile del comune di Roma, che al momento appunto della nostra entrata era abbandonato dal 2008, nel quale appunto veniva gestito uno strip club, chiuso poi da quanto insomma sappiamo noi per sfruttamento della prostituzione. Quindi diciamo che anche a livello architettonico internamente è uno spazio abbastanza interessante, per come è conformato, è il tipico nightclub, e appunto ci piaceva anche quest'idea di autogestircelo un nightclub, no? Nel senso comunque di riempirlo di contenuti politici e appunto delle donne per le donne e di contenuti di genere. Certo, l'avremmo fatto comunque, nel senso noi non sapevamo tutta questa roba qua quando abbiamo occupato, quindi noi quello che stiamo facendo adesso l'avremmo fatto comunque qualunque fosse stata la precedente destinazione d'uso del locale. Però ecco, questa qui è diciamo una nota simpatica in più. Una piacevole sorpresa. Sì, effettivamente devo dire che è abbastanza impressionante, insomma, vedere, come dire, l'arredamento del palco, i pali, le poltroncine rosse, insomma, del nightclub, e con tutti gli striscioni invece delle nostre lotte, insomma, è una, come dire, una contrapposizione che dà un effetto interessante. Non è neanche troppo una contrapposizione, in realtà noi li stiamo usando tantissimo, i pali, il palco e tutto il resto, insomma. Nessuna volontà, insomma, di contrapporci alle lavoratrici che c'erano là prima, anzi, grosso sostegno da parte nostra. Magari forse, ecco, più una contrapposizione alla gestione precedente. Sì, no, anche perché immagino che l'arredamento non l'abbiano fatto le lavoratrici, no, insomma. No, no, assolutamente. No, comunque è divertente, diciamo, riappropriarsi anche di quelli che comunque erano strumenti di un certo tipo, per esempio il corso di pole dance, e è molto piacevole, insomma, vedere delle donne che appunto utilizzando questi pali si riappropriano anche di un immaginario, no? Anche di, diciamo, della loro sensualità attorno a un palo vissuta in una maniera diversa, non per un immaginario maschile, ma appunto per la propria voglia, appunto, di riappropriarsi anche di quello e di quel tipo di sensualità. Ed è un'occupazione, diciamo, un'occupazione sociale, non è un'occupazione abitativa, uno spazio quindi aperto che si può venire, insomma, a vedere com'è, cosa si fa e qual è la programmazione, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Non è uno spazio, tra l'altro, separato, per cui sono tutte e tutti invitati a passare, a venire a vedere come butta, insomma. Assolutamente nessuna limitazione se non quella dell'antifascismo, antisessismo, antirazzismo, per cui, insomma, passateci. E intanto, insomma, tante ci sono passate anche per la costruzione di questa iniziativa, insomma, di questa domenica. Insomma, se vogliamo iniziare a parlare un po' di questa iniziativa, di che si tratta, come è nata l'idea. Sì, allora, diciamo che l'idea è nata da un bisogno proprio in primis nostro, nel senso che iniziando a vivere il quartiere di Ostiense, alcune lo vivevano già, insomma, per motivi di università, però iniziando a viverlo in maniera quotidiana attraverso l'occupazione di questo spazio, ci siamo rese conto che effettivamente è un quartiere un po' difficile da attraversare, soprattutto di sera, soprattutto determinate strade, e quindi ci è venuto in mente, diciamo, di immaginare una forma collettiva di attraversamento di questo quartiere, e perciò il 26 dicembre abbiamo fatto una prima assemblea, abbiamo lanciato una prima assemblea con appunto con le realtà politiche del quartiere, ma anche con i cittadini e le cittadine, e da questa prima assemblea appunto è venuta l'idea della passeggiata del 2 febbraio, quindi appunto un'idea di attraversamento del quartiere collettiva, di anche di diciamo riappropriazione di determinate strade in cui molte di noi molto spesso non vanno da sole di sera, perché magari non si sentono sicure o perché comunque sono luoghi inospitali, e quindi abbiamo deciso di andarci tutte insieme e di lasciare anche dei segni del nostro passaggio nel quartiere. Magari, se volete, intanto ci ascoltiamo un brano musicale e poi continuiamo a parlare di questa iniziativa di domenica. Queste sono le Kick la Luna e Dark Street è la canzone che è assolutamente a tema. What you gonna do when you feel the music inside? Torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Stiamo parlando con le compagne delle Cagne Sciolte dell'iniziativa che ci sarà questa domenica, domenica 2 febbraio alle 17.30, Le strade sicure le fanno le donne che le attraversano, appunto una passeggiata collettiva. Stavamo già parlando di questo e di come e perché è nata questa idea. Sì, appunto stavo dicendo che iniziando a vivere questo quartiere ci siamo rese conto di tutta una serie di dinamiche e di situazioni che lo riempiono, che effettivamente non ci piacciono. E diciamo che il quartiere di Ostiense è un quartiere sicuramente caratterizzato dalla presenza dell'università e quindi diciamo di una forte speculazione che ruota intorno a questo luogo. Quindi per esempio tutto quello che è la questione degli affitti per gli studenti, affitti sempre più alti, e diciamo anche tutta quella che è la questione della mercificazione di quella che è diciamo la vita universitaria, quindi a partire dall'acquisto dei testi, dal pagamento delle tasse universitarie, degli affitti, fino al divertimento, quindi tutta una serie di locali che sono sorti lì intorno che comunque diciamo traghettano una certa idea anche di divertimento, anche delle relazioni sociali che comunque noi vogliamo invertire e che cerchiamo di cambiare attraverso appunto questa passeggiata. E diciamo che appunto tra l'altro insomma una politica che si vede in tanti quartieri di Roma, questa insomma della creazione dei quartieri cosiddetti della movida, con poi appunto un'idea molto distorta di socialità, soprattutto molto commercializzata, capitalistica, mettiamola come si vuole, no? Parliamo non solo degli Ostiense, parliamo di San Lorenzo, ma non solo, Testaccio, Pigneto, insomma sono problemi che in questa sono quadri che in questa città si riproducono ormai. No, sì, perché poi insomma una parte la movida, l'altra faccia della movida appunto è la presenza massiccia delle forze dell'ordine che dovrebbero controllare chi poi vive la movida, quindi insomma questo sistema che si autoalimenta, che noi stiamo cercando un po' di rompere, no? Perché comunque alla fine non è che io mi sento più sicura per strada se vicino c'ho una guardia armata, un militare, un poliziotto, e quindi anche appunto cercare di piuttosto che di puntare sulla sicurezza, di puntare sulla liberazione di queste strade, l'attraversabilità da parte di tutte e tutti senza problemi. Appunto la ripresa delle strade è un po' quello che ci guida da questo punto di vista. Sì, questo è un punto fondamentale, no? Perché di fatto poi tutte queste campagne allarmistiche di creazione della paura o di o che vogliono sottolineare quello che i media mainstream chiamano degrado, dall'altra parte si sono sempre accompagnate alla richiesta o all'attuazione di politiche securitarie, telecamere, polizia in strada, eccetera. E quindi direi che qui c'è uno dei punti centrali, no, della vostra. Sì. Noi abbiamo deciso di non fare nessun appello alle istituzioni per quanto riguarda la nostra sicurezza, ma appunto autogestircela. E infatti anche, come si vede nel manifesto, c'è una mappa della zona in cui sono segnalate anche le altre realtà occupate, perché abbiamo voluto provare a fare una cosa in positivo, no? Qualcosa di costruttivo, nel senso, invece di segnalare quali sono i punti oscuri, segnalare quali sono magari i porti sicuri, nel senso, quando cammini per strada, anche da sapere quali posti hai vicino che sono dei posti amici, diciamo. E diciamo che sono anche quei posti che effettivamente trasmettono quell'idea di socialità che noi vogliamo contrapporre appunto alla socialità mercificata di cui parlavamo prima, quindi appunto realtà come Alexis o come il Porto Fluviale sul quartiere Ostiense sono effettivamente degli esempi che riescono a far vedere che cosa significa appunto riprendersi anche una nostra idea di socialità e anche di attraversamento del quartiere, anche un divertimento che parte appunto da delle relazioni orizzontali e dalle relazioni in cui appunto le donne non vengono viste esclusivamente come oggetto di piacere maschile, in cui appunto la violenza viene lasciata fuori, e questa è l'idea di socialità che vorremmo trasmettere. Sì, certo, e quindi appunto si vedono questi tre spazi e appunto un'altra si prospetta un'altra geografia sociale, culturale, di vita della città. E non so, sono state appunto, dicevate prima, assemblee preparatorie, no, di questa passeggiata. Che composizione hanno visto, insomma, chi avete chiamato, che risposta c'è stata? Guarda, la cosa bella, positiva, è stata che appunto noi abbiamo chiamato questa prima assemblea e c'è stata un'enorme risposta da parte degli abitanti del quartiere e anche da persone appunto non politicizzate, non militanti, non attivisti, da varie altre parti di Roma, sono venute da tanti quartieri ad ascoltare, a parlare, a condividere le esperienze, insomma, e perché evidentemente c'è una voglia, no, di fare qualche cosa in prima persona e di non appunto lasciarsi cullare dall'idea delle istituzioni che magari fanno qualcosa che poi in realtà è controproducente, lo sappiamo benissimo. E appunto una bella assemblea, perché appunto tanta gente comune, tante persone che parlavano, che intervenivano, che hanno costruito attivamente questa passeggiata, diciamo, noi siamo soltanto quelle che hanno lanciato l'idea, poi insomma è stata una cosa tutta orizzontale, poco di strutture politiche, e questa è la cosa che ci piace tanto. E per questa come si articolerà la giornata? Stiamo parlando, ricordiamo, di domenica pomeriggio, di domenica 2 febbraio. Allora, domenica 2 febbraio ci vedremo alle 17:30 in via Ostiense 137, quindi davanti allo spazio delle Cagne Sciolte, anche perché appunto vogliamo che quel luogo diventi un punto di riferimento nel quartiere, ma in generale nella città, anche per appunto per questo tipo di attività. E ci muoveremo, diciamo, lungo il quartiere. Durante questa passeggiata faremo una serie di tappe, anche appunto, ripeto, di segnalazione del nostro passaggio, quindi abbiamo immaginato tutta una serie di iniziative anche per lasciare appunto dei segni visibili del fatto che c'è stata questa passeggiata, del fatto che c'è un gruppo di donne, ma di persone in generale, che hanno deciso di auto-organizzarsi per riprendersi le strade. E durante la passeggiata passeremo anche al Porto Fluviale, ad Alexis, ci saranno dei momenti in cui appunto comunicheremo con queste occupazioni, in cui coinvolgeremo anche loro appunto nella passeggiata, e sostanzialmente poi torneremo al nostro spazio. E manderei ancora un brano musicale e poi torniamo magari per andare verso la chiusura di questa chiacchierata. Ricordi non ne hai di quella notte, lo sai. terzo piano della tua follia, letto in grembo come una magia. Dimmi il punto di vista di chi ne abusa e poi non chiede scusa. Dimmi il punto di vista di chi prende una vista e poi ti lascia sola. Wendy, il tuo vestitino sporco di vino oppure adesso seme. Wendy, il tuo vestitino copre un destino che aspetta la tua scelta. Wendy, dimmi cosa senti, fragole pungenti, ora che non esiste più. Wendy, dimmi cosa senti, fragole pungenti, ora che non esiste più. E 38 minuti, gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Stiamo ancora parlando con due compagne delle Cagne Sciolte, della iniziativa che ci sarà questa domenica 2 febbraio a partire dalle 17.30 con partenza proprio da Via Ostiense 37, cioè dal 137, scusate, che è proprio insomma l'indirizzo dello spazio che è stato occupato insomma nello scorso dicembre. E stavamo parlando appunto di questa passeggiata collettiva che ci sarà questa domenica e che però insomma non immaginiamo non sia un'iniziativa isolata, ma si pensa di proseguire un percorso a partire da proprio da questa data. Sì, infatti questo qui diciamo che è un primo appuntamento, una prima prova per vedere anche insomma come va, qual è la risposta del quartiere, e anche perché costruendo la passeggiata ci siamo resi conto che le strade che ci venivano segnalate dalle donne sull'apposito tabellone che avevamo lasciato all'ingresso erano veramente tante e non si riusciva insomma a coprirle tutte quante in una volta, e quindi anche concretamente è venuto fuori il bisogno di farne più di una passeggiata, di continuare il percorso, di continuare anche le assemblee con le persone che sono intervenute in queste settimane e aprire appunto un discorso di partecipazione, di auto-organizzazione a cui tutti insomma possano partecipare e costruirlo insieme a noi nel tempo. Poi insomma la cosa bella di questa passeggiata secondo me è anche il fatto che è riproducibile ovunque, per cui noi ci auspichiamo che magari la prossima passeggiata che faremo non sarà soltanto la nostra passeggiata a Roma Sud, ma ci saranno anche altre passeggiate, altre cose negli altri quartieri. Insomma ci piacerebbe molto che questa cosa venisse ripresa. Sì, immaginiamo insomma che vederla per strada e magari viverla potrà far venire anche più voglia insomma poi di ricostruirla nel proprio territorio, nel proprio infatti, quartiere. Infatti appunto non è, sono invitate soltanto le compagne delle donne del, di Ostiense, di Roma Sud, insomma tutte quante quelle che vogliono partecipare, che vogliono venire e passeggiare con noi domenica sono assolutamente benvenute anche a venire a vedere un po' com'è, uno spunto. E niente, non rimane che invitare tutti e tutte a partecipare alla passeggiata, ripeto, domenica 2 febbraio alle 17, dalle 17.30 in via Ostiense 137, e invitiamo chi non può o non ha voglia di scendere in piazza con noi ad aprire le strade, ad aprire le finestre al nostro passaggio e diciamo a guardare quello che stiamo costruendo nelle strade, così che magari la prossima volta si senta più invogliato, invogliata a partecipare e a venire a passeggiare insieme a noi, perché crediamo che appunto rompere l'isolamento in cui ci stanno rinchiudendo sia il primo passo per sconfiggere la violenza che viviamo tutti i giorni. E ricordiamo che oggi alle 18, sempre dalle Cagne, c'è la punta tecnica e pratica per costruire la passeggiata di domenica e naturalmente tutte e tutti sono invitati. Rinnovando anche noi l'invito insomma a partecipare questa domenica, ovviamente questi microfoni daranno spazio, conto insomma quel giorno ma anche nei giorni a seguire di questa iniziativa, e vi salutiamo, vi ringraziamo di essere venute qua. Ciao a tutte. Ciao a tutti. Vi facciamo riascoltare lo spottino che è pure divertente. Meno male.